Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Nella scorsa puntata la nostra lettura ha alternato, se ricordate, i momenti di guerra, come per esempio Napoleone che rifiuta le proposte di pace di Alessandro e che inizia invece a marciare decisamente verso Mosca, alle vicende private dei nostri personaggi principali. In particolare ricordiamo la sofferenza di Natascia per la disavventura che le è capitata con Anatole e che ha causato la rottura del suo fidanzamento con Andrei e l'amore per lei nascente in Pierre. Intanto la principessina Maria e il padre, il vecchio principe Balkonski, hanno dovuto lasciare Lisiagori perché ormai è minacciata molto da vicino dall'esercito francese. E Andrei capita a Lisiagori, abbandonata, insieme all'esercito russo che sta indietreggiando. Qui l'abbiamo lasciato e qui lo riprendiamo oggi. Il vecchio servo Alpatic gli sta raccontando lo stato delle cose. Tutti gli oggetti preziosi e di valore erano stati trasportati a Boguchárovo. Anche il grano, circa 100 some, era stato portato via. Il fieno e il grano di primavera, proprio eccezionale quell'anno, come diceva Alpatic, erano stati presi e falciati ancora verdi dalle truppe. I contadini erano rovinati. Alcuni erano andati anch'essi a Boguchárovo, una piccola parte era rimasta. «Forse avete notato i guasti nel giardino», disse Alpatic. «Non è stato possibile impedirli. Tre reggimenti sono passati di qui e vi hanno pernottato, specialmente i dragoni. Ho segnato il grado e la condizione del comandante per presentare la domanda del caso. E tu che farai? Resterai qui se verrà il nemico?» gli domandò il principe Andrei. Alpatic volse la faccia verso il principe e lo guardò. E a un tratto, con gesto solenne, levò le braccia in alto. «È lui il mio protettore. Sia fatta la sua volontà», proferì. Una folla di contadini e di servi, a testa scoperta, camminando sui prati, si avvicinava al principe Andrei. «Su, addio», disse il principe, chinandosi verso Alpatic. «Vattene anche tu e porta quello che puoi. Questa gente mandala nella proprietà di Ryazan o in quella sotto Mosca». Alpatic si strinse alle sue ginocchia e cominciò a singhiozzare. Il principe Andrei lo allontanò dolcemente e, spronato il cavallo, si avviò al galoppo giù per il viale. Poco lontano dall'Lisiagori riprese la strada maestra e raggiunse il suo reggimento presso la diga d'un piccolo stagno. Erano quasi le due dopo mezzogiorno. Il sole, un globo rosso nella polvere, gli riscaldava e bruciava insopportabilmente la schiena attraverso la giubba nera. La polvere, sempre eguale, stava immobile sulle truppe ferme piene di brusio. Non c'era vento. Attraversando la diga, il principe Andrei sentì l'odore della melma e dello stagno fresco. Gli venne voglia di buttarsi nell'acqua, per quanto fangosa potesse essere. Guardò lo stagno dal quale salivano grida e risate. Il piccolo stagno, torbido e coperto di erbe verdi, s'era evidentemente sollevato di un paio di barili, inondando la diga, perché era pieno di soldati nudi che guazzavano nell'acqua coi loro corpi bianchi, con le mani, i visi e i colli color mattone. Tutta quella carne umana nuda, bianca, sguazzava in quella pozzanghera sudicia con risate e con grida. Quello sguazzare era pieno di allegria e perciò stesso era particolarmente triste. Un giovane soldato biondo della terza compagnia, il principe Andrei lo conosceva, con una piccola cinghia sotto il polpaccio, segnandosi, indietreggiava per poter pigliare bene lo slancio e tuffarsi nell'acqua. Un altro, un sottufficiale bruno, sempre scarruffato, nell'acqua fino alla cintola, stirava felice il corpo muscoloso, aspirando l'acqua allegramente e versandosene sul capo con le braccia nere fino alle mani. Si sentivano il rumore dei tuffi, grida ed esclamazioni. Sulle sponde, nello stagno, sulla diga, dappertutto si vedeva quella carne bianca, sana, muscolosa. Un ufficiale si stropicciava con un asciugamano sulla diga e si vergognò vedendo il principe. Pure si decise di rivolgersi a lui. «Ci si sta bene, eccellenza. Se voleste...» disse. «È sudicia», disse il principe Andrei facendo una smorfia. «Ve la puliremo subito». E tutti si precipitarono, sicché a stento il principe Andrei riuscì a quietarli. Aveva pensato che era meglio far la doccia sotto la tettoia. «La carne, il corpo, la chair à canon», disse fra sé, guardando il suo corpo nudo. E rabbrividiva, non tanto per il freddo, quanto per un ribrezzo e un orrore che egli stesso non riusciva a capire, alla vista di quella enorme quantità di corpi sguazzanti nello stagno melmoso. Fra le innumerevoli suddivisioni che si possono fare dei fenomeni della vita, una può essere quella di suddividerli in fenomeni nei quali prevale la sostanza e fenomeni nei quali prevale la forma. Fra questi ultimi, in opposizione alla vita di campagna, di provincia e anche di Mosca, si può porre la vita di Pietroburgo e specialmente quella dei salotti. Questa vita è immutabile. Dal 1805 in poi noi avevamo fatto pace e litigato con Bonaparte, avevamo fatto e disfatto delle costituzioni, ma il salone di Anna Pavlovna e il salone di Hélène erano rimasti esattamente come erano, uno 7 anni, l'altro 5 anni prima. Come allora, da Anna Pavlovna si parlava con stupore dei successi di Bonaparte e come allora si vedeva in quei successi e nella connivenza dei sovrani d'Europa con lui una maligna congiura che aveva per unico scopo di dare seccature e molestie a quel crocchio di cortigiani di cui Anna Pavlovna era la rappresentante. Così pure da Hélène. Nel 1812, come nel 1808, si parlava con entusiasmo della grande nazione e del grande uomo e si guardava con rimpianto alla rottura con la Francia, rottura che, secondo l'opinione della gente che si riuniva nel salotto di Hélène, doveva concludersi con una pace. Negli ultimi tempi, dopo il ritorno dell'imperatore dal campo, c'era stata una certa agitazione in quei due opposti crocchi e salotti mondani, ed essi avevano avuto alcune manifestazioni ostili l'uno contro l'altro, ma le direttive dei due crocchi erano rimaste le stesse. Nel crocchio di Anna Pavlovna si ricevevano soltanto i francesi legittimisti inveterati e si esprimeva la patriottica idea che non si dovesse andare al teatro francese e che il mantenimento della compagnia costava quanto il mantenimento di un intero corpo d'armata. Si seguivano con avidità gli avvenimenti della guerra e si spargevano le voci più favorevoli al nostro esercito. Nel crocchio di Hélène, parteggiante per i francesi, si smentivano le voci sulla crudeltà del nemico e della guerra e si discutevano tutti i tentativi di Napoleone per una riconciliazione. In generale, nel salotto di Hélène, tutta la guerra era rappresentata come una serie di semplici manifestazioni che presto sarebbero finite con la pace. In questo crocchio si deridevano con ironia e con molto spirito, ma con molta prudenza, gli entusiasmi di Mosca, di cui era giunta notizia a Pietroburgo insieme con l'imperatore. Nel crocchio di Anna Pavlovna, invece, si levavano al cielo quegli entusiasmi e se ne parlava come Plutarco parla degli antichi. Il principe Vassili, che occupava sempre le medesime importanti cariche, era l'anello di congiunzione fra i due crocchi. Spesso, passando incessantemente da un campo all'altro, si confondeva e diceva in casa di Hélène ciò che bisognava dire in casa di Anna Pavlovna e viceversa. Mentre ciò accadeva a Pietroburgo, i francesi già avevano oltrepassato Smolensk e si avvicinavano sempre di più a Mosca. Dopo Smolensk, Napoleone cercò battaglia oltre Dorogobuz, presso Vjazma, poi presso Tsarevo-Zaimisce, ma per una infinita combinazione di circostanze accadde che fino a Borodino, a 112 miglia da Mosca, i russi non poterono accettare battaglia. Da Vjazma, Napoleone diede l'ordine che si muovesse direttamente su Mosca. Moscou, la capitale asiatique de ce grand empire, la ville sacrée des peuples d'Alexandre, Moscou, avec ses innombrables églises en forme de pagode chinoise. Questa Mosca non dava riposo all'immaginazione di Napoleone, la grande capitale asiatica di questo impero, la città sacra dei popoli d'Alessandrio, Mosca con le sue innumerevoli chiese in forma di pagoda cinese. La principessina Maria non era a Mosca e fuori pericolo, come credeva il principe Andrei. Dopo il ritorno di Alpatic da Smolensk, il vecchio principe parve risvegliarsi a un tratto da un sogno. Ordinò che fossero riunite le milizie dei villaggi, che fossero armate e scrisse al comandante in capo una lettera nella quale lo informava della sua intenzione di rimanere a Lisiagori fino all'estremo e di difendersi, lasciando al suo arbitrio di prendere o meno delle misure per la difesa di Lisiagori, dove sarebbe stato fatto prigioniero o ucciso uno dei più anziani generali russi, e dichiarò ai familiari che sarebbe rimasto a Lisiagori. Ma rimanendo a Lisiagori, il principe prese disposizioni per mandare la principessina e Dessal col piccolo principe a Boguchárovo e di lì a Mosca. La principessina Maria, spaventata dall'attività febbrile e insonne del padre, che era subentrata al suo antico abbattimento, non si poteva risolvere a lasciarlo solo e per la prima volta in vita sua si permise di disobbedirgli. Rifiutò di partire e su lei si scatenò la terribile tempesta della collera del principe. Egli le ricordò tutti i torti che le attribuiva ingiustamente. Non cercando che di accusarla, le disse che lo tormentava, che lo aveva fatto litigare col figlio, che aveva concepito su di lui dei sospetti infami, che il suo scopo nella vita era quello di avvelenargli la vita, e la scacciò dal suo studio, dicendole che se lei non partiva, per lui era tutt'uno. Disse che voleva ignorare la sua esistenza, ma la avvertiva che non avesse più l'ardire di capitargli sotto gli occhi. Che, contrariamente al timore della principessina Maria, egli non avesse ordinato di condurla via per forza, ma soltanto le avesse ingiunto di non capitargli sotto gli occhi, fu un motivo di gioia per la principessina Maria. Ciò dimostrava, ella lo sapeva, che nelle segrete profondità dell'animo suo, egli era contento che la figlia rimanesse a casa e non partisse. Il giorno che seguì la partenza di Nikolushka, il vecchio principe, la mattina, si mise in uniforme completa e si preparò ad andare dal comandante in capo. La carrozza era già pronta. La principessina Maria vide come egli, in uniforme e con tutte le sue decorazioni, uscì di casa e andò nel giardino a passare in rivista i contadini e i domestici armati. La principessina Maria stava seduta accanto alla finestra, tendendo l'orecchio alla voce di lui che risonava nel giardino. Ad un tratto, dal viale vennero correndo alcune persone coi visi spauriti. La principessina Maria corse sulla scalinata, sulla viottola fiorita e sul viale. Le veniva incontro una gran folla di militi e di domestici, e in mezzo a questa folla alcune persone conducevano sotto braccio un piccolo vecchietto in uniforme, carico di decorazioni. La principessina Maria corse verso di lui, e nello svariare della luce che cadeva a piccoli cerchi attraverso l'ombra del viale dei tigli, non poté rendersi conto del cambiamento che era avvenuto sul viso di lui. La sola cosa che vide fu che l'espressione severa e risoluta del suo volto s'era cambiata in un'espressione di timidezza e di sottomissione. Scorgendo la figlia, mosse le labbra senza forza e mandò un suono rauco. Era impossibile capire che cosa volesse. Lo sollevarono a braccia, lo trasportarono nel suo studio e lo adagiarono su quel divano del quale aveva tanto terrore in quegli ultimi tempi. Il dottore, mandato a prendere, quella stessa notte gli levò sangue e dichiarò che il principe aveva avuto un colpo al lato destro. Restare a Lisiagori diventava sempre più pericoloso, e il giorno seguente il principe fu trasportato a Boguchárovo. Il dottore andò con lui. Il vecchio principe era senza conoscenza. Giaceva come un cadavere mutilato. Egli non smetteva di borbottare qualcosa, muovendo le sopracciglia e le labbra, ed era impossibile sapere se capisse o no ciò che lo circondava. Una sola cosa si poteva capire di certo, che soffriva, e sentiva il bisogno di esprimere qualche cosa, ma nessuno poteva capire che cosa fosse, se fosse un qualsiasi capriccio di malato e di mezzo demente, se avesse attinenza agli affari pubblici o alle circostanze familiari. Certamente soffriva nel fisico e nel morale. Speranza di guarigione non ce n'era. Trasportarlo altrove era impossibile. E che sarebbe stato se moriva in viaggio? Non sarebbe meglio la fine? Addirittura la fine? Pensava a volte la principessina Maria. Ella lo assisteva giorno e notte, quasi senza pigliare sonno, e, terribile a dirsi, spesso lo vegliava non con la speranza di trovare qualche segno di miglioramento, ma spesso desiderando di trovare qualche segno dell'avvicinarsi della fine. Per quanto alla principessina riuscisse strano riconoscere in sé questo sentimento, pure questo sentimento esisteva in lei. E il più tremendo per la principessina Maria era questo, che da quando suo padre era malato s'erano ridestati in lei tutti i dimenticati desideri e le speranze personali assopite. Idee che da anni non le venivano più in mente, quella di una vita libera, senza la paura del padre e perfino la possibilità dell'amore e della felicità familiare, come tentazioni diaboliche si affacciavano ora continuamente alla sua immaginazione. Sentiva che adesso un altro mondo la prendeva, quello di un'attività mondana, operosa e libera, assolutamente in opposizione a quel mondo morale nel quale era chiusa prima e nel quale il miglior conforto era la preghiera. Ella non poteva pregare e non poteva piangere e le cure della vita l'assorbivano. Il capo della polizia circondariale andò a Boguchárovo dicendo che i francesi erano a 40 miglia, che per i villaggi correvano proclami francesi e che se la principessina non partiva col padre prima del 15, egli non rispondeva più di nulla. Il 15 la principessina decise di partire. La notte la passò come al solito, senza spogliarsi, nella stanza accanto a quella dove giaceva il padre, e ogni tanto andava alla porta e ascoltava, desiderando entrare senza decidersi a farlo. Sapeva che, se fosse entrata di notte, in un'ora insolita, si sarebbe irritato. Eppure mai le era parso così doloroso, così terribile il pensiero di perderlo. Si ricordava tutta la propria vita con lui, e in ogni sua parola, in ogni suo atto, trovava l'espressione del suo affetto per lei. Verso la mattina, egli si calmò ed ella prese sonno. Si svegliò tardi. Quella sincerità che si ha allo svegliarsi le mostrò chiaramente ciò che più di tutto la occupava nella malattia del padre. Si svegliò, tese l'orecchio a ciò che accadeva dietro la porta e, udendo i suoi gemiti, si disse con un sospiro che tutto era come sempre. La mattina era tiepida e grigia. La principessina Maria si fermò sulla porta, sempre inorridita della propria abiezione spirituale e sforzandosi di mettere in ordine i propri pensieri prima di recarsi da lui. Il dottore scese le scale e si avvicinò a lei. «Sta un po' meglio oggi», disse il dottore. «Vi cercavo. Si può capire qualcosa di quello che dice. La testa è più fresca. Andiamo, vi chiama». Egli giaceva supino, con la testa in alto, con le sue piccole mani ossute, coperte di vene violacee e nodose, posate sulla coperta, con l'occhio sinistro aperto e fisso davanti a sé e il destro che guardava guercio, con le sopracciglia e le labbra immobili. Tutto il suo corpo era così magro, piccolo e pietoso. Il viso pareva come disseccato o assottigliato e i tratti affinati. La principessina si accostò e gli baciò la mano. Con la mano sinistra egli le strinse la mano in modo da far intendere che l'aspettava già da un pezzo. Le tirò la mano, mentre le sopracciglia e le labbra gli si agitavano rabbiosamente. Ella lo guardava spaurita, sforzandosi di indovinare che cosa volesse da lei. Quando lei, cambiando posizione, si mise in modo che con l'occhio sinistro egli poté vederla in viso, si quietò per qualche secondo, non togliendole gli occhi di dosso. Poi smosse le labbra e la lingua. Si udirono dei suoni ed egli cominciò a parlare, guardandola timidamente e con implorazione, temendo evidentemente che ella non lo capisse. La principessina Maria, tendendo tutta la sua forza di attenzione, lo guardava. Il comico sforzo col quale egli girava la lingua fece abbassare gli occhi alla principessina Maria e con fatica ella soffocò i singhiozzi che le salivano in gola. Egli disse qualcosa, ripetendo più volte le stesse parole. La principessina Maria non poteva capirle, ma si sforzava di indovinare ciò che egli diceva e ripeteva interrogativamente le parole da lui dette. «Pepe, oe, oe», ripeté egli più volte. Era impossibile capire queste parole. Il dottore credette di avere indovinato e, ripetendo le sue parole, domandò «La principessina ha paura?». Egli scosse negativamente il capo e ripeté di nuovo lo stesso. «Si spezza il cuore», indovinò e disse la principessina Maria. Egli mandò un mugolio, confermando. Le prese la mano e se la strinse su diversi punti del petto, come se le cercasse il suo vero posto. «Sempre pensieri. Su di te. Pensieri», proferì poi molto meglio e più chiaramente di prima, ora che era sicuro di essere capito. La principessina Maria posò la testa sulla mano di lui, cercando di nascondere i propri singhiozzi e le lacrime. Egli le passava la mano sui capelli. «Ti ho chiamata tutta la notte», disse. «Se avessi saputo», disse lei attraverso le lacrime. «Avevo paura di entrare». Egli le strinse la mano. «Non dormivi?» «No, non dormivo», disse la principessina Maria, scotendo il capo negativamente. Imitando senza volere il padre, ora ella cercava, come lui, di parlare più che altro con i gesti, quasi che anche lei volgesse con difficoltà la lingua. «Anima mia, o amica mia!» La principessina Maria non riuscì a capire bene, ma certo dall'espressione del suo sguardo egli aveva dovuto dire una parola tenera, carezzevole, che non aveva mai detta. «Perché non sei venuta?» «E io ho desiderato la sua morte!» pensò la principessina Maria. Egli tacque per un po'. Ti ringrazio, figlia mia, amica mia, di tutto, perdonami, grazie, perdonami, grazie. E le lacrime gli colarono dagli occhi. La principessina Maria non si poteva più trattenere e piangeva anche lei, guardandolo in viso. Egli tornò a chiudere gli occhi e i singhiozzi cessarono. Accennò con la mano ai suoi occhi. Il servo, che lo capì, gli asciugò le lacrime. Poi disse qualche cosa che per un pezzo nessuno poté capire e finalmente il solo servo capì e ripeté. La principessina Maria cercava il senso di quelle parole nell'ordine di idee nel quale egli aveva parlato un momento prima. Pensava che volesse parlare della Russia, del principe Andrei, di lei, del nipote, della morte. Perciò non poteva indovinare quello che egli diceva. «Metti il tuo vestito bianco. Mi piace», egli diceva. Avendo finalmente compreso queste parole, la principessina Maria singhiozzò più forte e il dottore, prendendola sotto braccio, la fece uscire dalla stanza sulla terrazza, esortandola a calmarsi e ad occuparsi dei preparativi della partenza. Quando la principessina Maria fu uscita, egli parlò del figlio, della guerra, dell'imperatore, corrugò rabbiosamente le sopracciglia, cominciò ad alzare la sua voce rauca e gli venne un secondo ed ultimo colpo. La principessina Maria era rimasta sulla terrazza. La giornata s'era fatta bella. C'era sole e faceva caldo. Ella non poteva né capire né pensare a nulla, né sentire altro che la sua appassionata tenerezza per il padre, tenerezza che le pareva di avere sempre ignorata fino a quel momento. Corse in giardino e, singhiozzando, arrivò di corsa fino allo stagno attraverso i nuovi vialetti di tigli piantati dal principe Andrei. Sotto a un'altura, in riva al laghetto, in un posto dove nessuno poteva vederla, sedette sull'erba. Non seppe mai quanto tempo passò là. Dei passi femminili che correvano per il sentiero la destarono. Si alzò e vide che la sua cameriera, che certamente correva a cercarla, si fermò di botto, come spaventata nel vedere la padroncina. «Favorite, principessina, il principe», disse la cameriera con voce rotta. «Subito, vengo, vengo», disse in fretta la principessina e corse verso casa. Aprì la porta e la luce chiara del giorno in quella stanza che prima era sempre nella penombra la spaventò. Egli giaceva sempre sul letto come al solito, ma l'aspetto severo del suo viso calmo fermò la principessina Maria sulla soglia della camera. «No, non è morto, non può essere», si disse la principessina Maria. Si avvicinò a lui e, vincendo il terrore che l'aveva presa, posò le labbra sulla sua gota. Ma subito si tirò indietro. In un istante, tutta la forza di tenerezza che aveva sentita per lui era sparita, per dare posto a un senso di terrore per ciò che le stava davanti. «No, non c'è più. Lui non c'è più. Ma qui, dov'era lui? C'è qualcosa di estraneo e di ostile. Un terribile, spaventevole e ripugnante mistero». E coprendosi il viso con le mani, la principessina Maria cadde nelle braccia del dottore che la sostenne. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.